Sono le 13. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. Piano casa, 100.000 nuove abitazioni in 5 anni per giovani coppie, immigrati regolari, anziani. Tra poco l'intervista al ministro Matteoli. Dopo Napolitano attesa per le parole di Fini questo pomeriggio, i giornali stranieri tornano intanto a parlare di Berlusconi e sentiremo cosa dicono, mentre la popolarità del premier è in calo, stando ai sondaggi. Migliaia di allevatori sono in questo momento al valico del Brennero, vogliono che sul latte e formaggi ci sia l'indicazione di provenienza italiana o non italiana. Zunino si dimette, ma intanto in borsa il risanamento non riesce a fare prezzo, ci sono cali di oltre il 40%. Italia sporca e troppo costosa, i giapponesi fuggono, ma è proprio vero, ne parleremo tra poco in XL. Super Enalotto, 100 milioni di montepremi, le giocate crescono del 23%. Cosa ci farebbe Lino Banfi, pozzi e ospedali in Africa? Ai mondiali di nuoto, oggi è il giorno di Tania Cagnotto, al Tour de France, tappa in parte italiana. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione. In apertura dunque il piano casa, che con la firma di Berlusconi ha avuto il via libera definitivo. Il piano prevede 100.000 nuove case in 5 anni, come vi dicevamo nei titoli. Non si tratta, è bene chiarirlo, del sistema di incentivi alla ristrutturazione o alla creazione di nuove cubature, del quale molto si è discusso nei giorni scorsi. Lo chiediamo direttamente al ministro delle Infrastrutture, Altero Matteoli, che è in linea con noi. Allora, ministro, sono due cose diverse. Allora, giustamente lei ha detto una cosa, ci sono due aspetti. Uno è la semplificazione, che riguarda le regioni che stanno provvedendo a fare leggi per la semplificazione, sarebbe quella relativa all'ampliamento del 20%, all'abbattimento di case obsolete, la ricostruzione col 30% di cubatura in più. E il piano casa è tutt'altra una cosa. Il piano casa mira a realizzare oltre 100.000 abitazioni, 125.000 circa, sul territorio nazionale per giovani coppie, per anziani, per studenti universitari, per coloro che hanno, per immigrati regolari a basso reddito che sono residenti in Italia da più di 10 anni, insomma per coloro che vivono in condizioni svantaggiate. Questa proposta, questa firma di questo DPCM quindi risolve il problema per i meno ambienti che hanno grandi difficoltà per l'accesso alla casa e nello stesso tempo crea lavoro per le piccole imprese del settore edilizio e quindi crea occupazione. Ministro, è un piano solamente edilizio o prevede anche la liberazione di una parte del patrimonio abitativo esistente, magari per esempio delle case, una parte delle case popolari, riutilizzo, ristrutturazione di alcune case popolari non utilizzate? No, questa è costruzione di nuove case. In termini economici quanto vale questo piano? Gli investimenti a regime si stima che attrarrà circa 3 miliardi di euro. Un'ultima domanda sul fronte territoriale, quali sono le regioni o le aree che, sulle quali ritiene che si debba intervenire di più? Beh, sicuramente nel settore è un po' difficile perché nel meridione certamente ci sarà più necessità che altrove, ma io credo che poi spalmato su tutto il territorio nazionale andremo a verificare che le regioni saranno all'incirca tutte uguali, ecco. E poi qui naturalmente tutto questo dipende anche da come lavorano le regioni e gli enti locali per spingere a far sì che questo si realizzi in tempi brevi. E quindi anche probabilmente dalle necessità effettive di ogni singola regione o di ogni singola città. Naturale. Questo a mio avviso vale sempre, per poi l'uomo conta ancora, ecco, la capacità dell'assessore o del sindaco di velocizzare naturalmente inciderà sulla realizzazione del programma. Bene, chiarissimo. Grazie Altero Matteoli, ministro per le infrastrutture, per essere stato con noi. Buongiorno. Anche a lei, buon lavoro, buongiorno. E ora passiamo a parlare, o meglio, continuiamo a parlare di politica economica con soprattutto il decreto anticrisi, perché c'è una notizia dell'ultima ora. Allora, ci colleghiamo con Montecitorio, dove c'è il nostro Vincenzo Miglietta. Vincenzo, che cosa è successo? Buongiorno ai nostri ascoltatori. La maggioranza è stata abbattuta poco fa su un emendamento all'articolo 3 del provvedimento riguardante i costi di trasmissione dell'energia elettrica e i relativi controlli da parte dell'autority. Su un emendamento presentato dal Partito Democratico, il centrodestra è andato sotto praticamente di un voto. Vedremo nelle prossime ore come si evolverà questo punto. Possiamo invece dire che si tratterà, per quanto riguarda il decreto anticrisi, di una giornata in più di lavoro nelle commissioni bilancio e finanze della Camera. Il testo era infatti atteso per oggi nell'aula di Montecitorio, ma la conferenza dei capigruppo ha optato per dare più spazio per la discussione in commissione. A questo punto il provvedimento arriverà domani nell'emiciclo. I tempi tuttavia stringono ed appare sempre più certo che il governo ricorra alla fiducia per assicurarsi la conversione in legge prima della pausa estiva. Tra i punti cruciali all'esame oggi dei deputati, la detassazione degli investimenti per le imprese, lo scudo fiscale, mentre è stato dato il via libera alla regolarizzazione per Badanti e Colf. Ecco Vincenzo, e poi c'è anche il documento di programmazione economica e finanziaria, no? Oggi ci sono delle audizioni importanti. Assolutamente è così, la capigruppo del Senato tra l'altro ha stilato il calendario parlamentare per il documento di programmazione economica e finanziaria, il voto finale è previsto per martedì 28 luglio e oggi, come dicevi giustamente da studio, nel pomeriggio vi saranno alcune audizioni molto importanti. Alle 15 il ministro dell'economia Tremonti, poi Istat, CNEL ed ISAE, alle 20 il governatore della Banca d'Italia Draghi. Grazie Vincenzo Miglietta per questi aggiornamenti da Montecitorio. Noi cambiamo argomento e parliamo del turismo italiano. Insomma, se ne sta discutendo molto in questi giorni. Prezzi troppo alti, città sporche, insomma, articoli sui giornali sembrano parlare dei giapponesi ormai poco interessati alle nostre città. Abbiamo girato tra l'altro la domanda a qualche giapponese d'Italia. Sentiamo. Prima o poi la furbizia si paga. Sembra questa la lezione che si può trarre dalle conseguenze della vicenda che aveva coinvolto una coppia di giapponesi, che lo scorso giugno si era vista appioppare un conto di 597 euro da un ristorante romano, compresa la mancia obbligata di 115 euro. Ad attendere i truffatori all'angolo non c'è solo una bella denuncia, ma cosa che riguarda tutti gli italiani, c'è anche il progressivo abbandono del paese, fotografato da un articolo del corrispondente da Roma di un quotidiano giapponese del calibro di 8 milioni di copie al mattino, l'Asahi Shimbun, che titola «Il turismo in Italia, rapido declino». La stampa giapponese parla di meno visitatori per un calo di interesse dei cittadini nipponici, mentre non è proprio così, secondo il direttore dell'Istituto Giapponese di Cultura in Roma, professor Takada. Il numero dei turisti giapponesi per l'Italia, verso l'Italia, è chiaramente caduto nei primi mesi di quest'anno per la crisi mondiale economica. Si sperava di recuperare questo numero e invece questo non è stato possibile a causa, questa volta, per l'influenza di nuovo tipo. Dati alla mano, nel 1997 erano stati più di 2 milioni i turisti giapponesi, nel 2007 un milione e mezzo e quest'anno saranno un milione, meno 15% rispetto all'anno scorso che già aveva visto un calo del 7%. Le cifre danno ragione al corrispondente giapponese che da Francia e Germania come mete alternative preferite dai viaggiatori nipponici, ma più di tutto può la bottiglietta d'acqua 5 euro, davvero scoraggiante. Anna Marino, GR24, Sole 24 Ore. Cristina Fei invece è andata in giro per Roma a raccogliere qualche voce, le voci di persone che sono la pietra dello scandalo. Sentiamo dove. In tempo di crisi economica qualcuno fa il furbo in un ristorante del centro di Roma. A rimetterci la carta di credito è stata una coppia di turisti giapponesi che ha pagato quasi 700 euro per un pranzo completo. Sono casi rari ma sempre più frequenti, anche se i ristoratori della capitale sorridono e invitano alla calma. Ecco cosa ci hanno detto poco fa in via Veneto. Non credo che Roma sia una città in cui gli stranieri vengano continuamente derubati, non penso. Ci sono delle eccezioni, questo sicuramente. Dipende sempre quale è che chiede ai clienti. Un pranzo per due persone dipende dal vino, della qualità, però una media di 30 euro, 40 euro. Cani, pesce, primo e secondo. Una grossa truffa, loro si sono anche accreditati una mancia di 115 euro, penso, quindi sì, una truffa. Il turismo non è che più quello di una volta, è cambiato, più di 20 euro a persona non pagano. Non credo sia una novità, credo che ci siano molti casi simili. Cristina Fei, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma. Lo sentivate nei titoli, nella vicenda del gruppo di Luigi Zunino, alla quale vi accennavamo ieri. Era una giornata di incontri decisivi dopo che il Tribunale ne aveva chiesto il fallimento. Che cosa è successo nella notte e cosa sta succedendo stamattina sui mercati? Lo chiediamo alla nostra Deborah Rosciani. Deborah. Sì, Simone, buongiorno. Allora, parte dalle dimissioni di Luigi Zunino dal vertice di risanamento il piano delle banche creditrici per tentare il rilancio del gruppo immobiliare su cui grava la richiesta di fallimento avanzata dalla Procura di Milano. L'uscita di Zunino dall'azienda, su cui pesano debiti per circa 3 miliardi, è arrivata ieri al termine di una giornata di colloqui serrati iniziati in mattinata con l'incontro fra gli istituti e l'advisor Banca Leonardo, in cui si è discusso il piano messo a punto dai consulenti. E poi la giornata è proseguita col consiglio di amministrazione di risanamento ed è stata sostanzialmente la conferma di quello che molti si aspettavano da tempo. Oltre a Zunino lasciano due consiglieri di risanamento e adesso si apre la porta ad un nuovo presidente e a un nuovo amministratore delegato di garanzia che traghettino l'azienda nella fase attuale. Non è da escludere che venga affidata la guida del gruppo nelle mani del banchiere Salvatore Mancuso, attuale super consulente ed ex numero uno del Banco di Sicilia. La tappa fondamentale ora è l'udienza del 29 luglio, in cui risanamento dovrà convincere il Tribunale di Milano a mettere da parte l'ipotesi di fallimento, spiegando di essere un gruppo ancora capace di esprimere valore sufficiente a garanzia dell'ampio passivo. E tra l'altro, proprio poche ore fa, il gruppo, in relazione alla richiesta di fallimento, ha ribadito che una volta verificata la disponibilità dei creditori finanziari a sostenere il piano di ristrutturazione elaborato da presentare in occasione dell'udienza del 29 luglio, verrà riconosciuta in tempi rapidi l'inconsistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento. A questa strategia, come dire, di difesa però la borsa non crede, perché il titolo è stato riammesso stamattina agli scambi in borsa e non è riuscito a fare prezzo, resta in asta di volatilità con un calo teorico del 45%. Simone. Grazie Deborah per questi aggiornamenti. Adesso noi parliamo di televisione, perché sono in arrivo un po' di rivoluzioni. Allora, Sky ha convocato i giornalisti per oggi, Rai, Mediaset e La 7 invece li chiameranno domani, due conferenze stampa a Roma che possono ridisegnare il quadro delle alleanze che preparano le novità del prossimo autunno, di palinsesto ma soprattutto tecnologiche. L'autunno televisivo sarà incandescente. La guerra era stata dichiarata, ma ora le opposte fazioni schierano gli eserciti. La presentazione della nuova armata sarà domani. Rai presenterà con Mediaset e La 7 la propria offerta satellitare, per ora gratuita. Sarà un decoder ibrido in cui si potrà vedere sia il digitale terrestre che i canali satellitari del nuovo pacchetto che si chiamerà TVSAT. Decoder e card costeranno in tutto 100 euro. Non in tutte le regioni d'Italia è il digitale terrestre a piena copertura. Quando la fase di switch off, cioè di passaggio, sarà ultimata, in quelle zone che rimarranno senza segnale analogico il satellite sarà necessario. E se non verrà rinnovato il contratto con Sky Italia, in scadenza il 31 luglio, per vedere la Rai ci vorrà appunto il diverso decoder. Inevitabilmente il conflitto diventa anche politico. Il primo a schierarsi ieri, Antonio Di Pietro, sul suo blog, che parla di grande ammucchiata e ipotizza che il progetto serva a portare soldi alle aziende di proprietà del premier Berlusconi. Ma in ballo c'è anche l'obbligo della presenza della TV pubblica su tutte le piattaforme. È sufficiente la presenza su una sola piattaforma satellitare per rispettare il contratto di servizio che obbliga la RAI alla neutralità tecnologica? L'Authority sta decidendo. Intanto in questi minuti Sky presenta le novità dei canali cinema. Rimpiazzerà Rai Sat con Sky Cinema Italia e Baby TV, oltre a Gambero Rosso, acquisito dalla RAI, che ha perso anche i diritti dello show di David Letterman. Si attendono a questo punto le nuove manovre. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. Già accennava la nostra Marta Cagnola a questioni politiche che riguardano la televisione. Di tutt'altre questioni politiche si parla in queste ore. Ci sono le parole del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, l'attesa di oggi per le parole di Gianfranco Fini. Le 13, 16 minuti, 27 secondi nella prima parte del GR Extra Large. Abbiamo parlato del piano casa, 100.000 nuove abitazioni in 5 anni per giovani coppie, immigrati, regolari, anziani. Piano che ci ha spiegato direttamente il ministro delle infrastrutture Altero Matteoli. Abbiamo parlato della vicenda del gruppo di Luigi Zunino, risanamento. Zunino si è dimesso, ma intanto in borsa il risanamento fa segnare cali di oltre il 40%. Abbiamo parlato delle polemiche sul fatto che i giapponesi starebbero fuggendo dall'Italia perché c'è in agguato la fregatura da parte dei ristoranti e diciamo così anche città piuttosto sporche. Adesso ci occupiamo di politica. Ci occupiamo di politica dopo le parole di ieri di Giorgio Napolitano. Elisabetta Fiorito, gli occhi oggi sembrano puntati non più sul Quirinale ma su Montecitorio, sulla Camera. E certo, oggi pomeriggio appuntamento qui alla Camera con il presidente Gianfranco Fini e la stampa parlamentare per la cerimonia del ventaglio, ma è ancora forte l'eco delle parole del capo dello Stato Giorgio Napolitano alla cerimonia del ventaglio di ieri al Quirinale, che auspica una convergenza sul disegno di legge sulle intercettazioni alla riapertura dei lavori a settembre, e il presidente ha anche risposto alle critiche sulla promulgazione della legge sulla sicurezza. È probabile allora che il presidente di Montecitorio Gianfranco Fini condivida gran parte dei richiami del Presidente della Repubblica. Da tempo, lo ricordiamo, il Presidente della Camera si pone come un esponente a sé rispetto all'attuale maggioranza e a volte molto critico anche nei confronti del Governo. Il Premier Silvio Berlusconi si potrebbe, se così vogliamo dire, trovare tra ieri e oggi stretto tra due ventagli, quello del Quirinale e quello invece di Montecitorio. Ma è anche probabile che Fini dica qualcosa contro gli attacchi di Antonio Di Pietro al Quirinale, magari proprio da Presidente dell'Assemblea a deputato qual è Di Pietro. Questa mattina poi Fini ha incontrato attori, registi e lavoratori del cinema e del teatro e non esclude la possibilità del reintegro dei fondi unici per lo spettacolo. Quindi in attesa di questo nuovo evento alle 17 appuntamento alla Camera con Fini. Ecco, grazie Elisabetta Fiorito. Tra l'altro li citavi tu i lavoratori dello spettacolo che ieri hanno protestato fortemente per i tagli appunto al fondo unico. Oggi sentiamo alcune delle voci più famose di questa protesta, le ha raccolte la nostra Paola Cavadi. La crisi morde e il governo taglia. Al Fondo Unico per lo Spettacolo il ministro Tremonti ha tolto 131 milioni di euro, riducendolo dai 511 stanziati da Prodi agli attuali 380. Una cifra del tutto insufficiente che mette in pericolo la sopravvivenza stessa del settore. Ieri, di fronte a Montecitorio, è andata in scena la protesta del mondo dello spettacolo. Ricky Tognazzi. C'è il rischio del collasso. È un settore già in crisi per sua natura e, insomma, può essere decisivo. Ogni finanziaria i tagli si fanno naturalmente per prima la cultura come se fosse un bene superfluo e poi alla sanità e poi alla scuola, insomma, tutte cose ritenute di poco valore ma che invece non lo sono. Gli spiragli sono pochissimi, lo ha confermato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Gianni Letta ieri durante un incontro con una delegazione di manifestanti. Michele Conforti dell'associazione 100 autori punta il dito contro il ministro della cultura. Bondi ha mentito perché ci aveva dato assicurazioni di fronte al capo dello Stato che avrebbe reintegrato il FUS e noi del cinema ci aspettavamo pochi soldi, giusto quelli che potevano dare la possibilità a tanti film che hanno difficoltà in questo momento a essere prodotti, andare sul mercato. E proprio per questo vedevamo questo gran motore delle agevolazioni fiscali che poteva fare in modo che alcuni film che non si potevano produrre con altri sistemi si potessero produrre. L'ho già detto, Gomorra e il Divo, che sono stati prodotti senza avere le televisioni dietro. Per Silvio Orlando non tira una buona aria. In piazza gira con occhiali scuri e fare dimesso. Sembra una cosa tombale, però che non sia una cosa di vendetta, anche perché poi nel settore ci sono molta gente di sinistra ma anche moltissimi di destra, che votano a destra, quindi è una cosa punitiva per tutto il settore, senza una chiarificazione, una spiegazione, un gesto molto arrogante, ecco, soprattutto questo colpisce, insomma, l'arroganza del modo di fare. Mariangela Melato è in prima fila tra i manifestanti. Si rischia soprattutto l'inattività e la cassa integrazione per un sacco di persone che lavorano allo spettacolo e non sono necessariamente attori o divi o star, ma penso alle sarte, alle maestranze, a tutto il mondo dello spettacolo. Personalmente sono abbastanza preoccupata, ecco. Non credo che se i teatri, parlo del teatro perché io sono maggiormente impiegata in teatro, ma si chiude la gente se ne accorgerebbe. Forse bisognerebbe cercare di chiudere la televisione, di far danni veri, perché colpire chi viene, paga un biglietto, esce di casa per andare a teatro mi sembra una stronzata, onestamente. E soprattutto speriamo che loro non si comportino in modo tale da farci sentire la guerra contro i poveri, perché inevitabilmente succederà che se danno una miseria, succederà che dirà il cinema ne ha di più, il teatro ne ha di meno, scatenando il peggio di noi. È invece una categoria a cui manca ed è sempre mancata, e speriamo che questa sia la volta buona almeno di ottenere questo risultato, di essere uniti. Per i circa 200.000 lavoratori del settore è in gioco più di una questione di principio. Lavoratori precari e intermittenti per definizione, giovani attori, ballerini, musicisti d'orchestra, maestranze, per loro è a rischio il posto di lavoro. Sono un aggiunto di fila dell'orchestra regionale. meridionale del Lazio. È a rischio l'attività di tutti, i tagli al FUS colpiranno tutti indistintamente. Io faccio l'attore, il governo fa il comico, no scherzo, precario totale. AMC, associazione montaggio, e siamo qui. Il nuovo mercato del lavoro per noi non è per niente nuovo, soltanto peggiorato. Paola Cavalli, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma. Dopo questa breve deviazione nel mondo dello spettacolo, torniamo alla politica, anche se anche questa è politica tutto sommato. Siamo con Stefano Folli, editorialista e analista politico del Sole 24 Ore. Buongiorno Stefano. Buongiorno a voi. Allora Stefano, sembra che l'invito ad un clima di collaborazione di Giorgio Napolitano sul tema delle intercettazioni, come tu tra l'altro scrivi oggi proprio sul Sole 24 Ore, si scontri in realtà con un clima per nulla sereno, nella quale la vicenda D'Addario, la vicenda escort che riguarda il Presidente del Consiglio, ha un ruolo notevole. Sì, c'è questo clima, insomma, un po' di malessere, di inquietudine generale, e questa vicenda D'Addario non è tale, a mio avviso, da, diciamo, da destabilizzare il quadro politico, probabilmente nemmeno è tale da costringere poi Berlusconi ad andare in Parlamento a riferire, però è sufficiente a logorare il quadro generale. Diciamo che si produce un fenomeno di costante logorio anche della figura del Presidente del Consiglio, perché no, ma non tanto da creare un problema politico definitivo, il che significa naturalmente che la qualità del dibattito politico si immiserisce e diventa molto difficile arrivare a dei punti di convergenza su questioni così delicate come sono le intercettazioni, la disciplina delle intercettazioni, delle indagini, cose che mettono in campo anche alcuni cardini della libertà di stampa, e questo è il clima peggiore per poter produrre un risultato. E questo naturalmente tradotto significa difficoltà nei lavori parlamentari, significa anche un autunno piuttosto difficile a cui dobbiamo guardare, in cui la figura del Capo dello Stato comunque sarà necessariamente un punto di equilibrio a cui un po' tutte le forze politiche dovranno guardare. Parlavi tu Stefano di logorio della figura del Presidente del Consiglio, del resto oggi c'è un nuovo sondaggio che è quello di PR Marketing per Repubblica, che indica la popolarità di Berlusconi scesa sotto il 50, che è un dato notevole, insomma, da... Infatti io penso che ci sia un logorio, penso che Berlusconi ha dimostrato di saper reggere anche delle pressioni molto forti, e il successo del G8 comunque indubbiamente è stato un beneficio per la sua immagine, ma il quadro generale, come ho detto, è un quadro che goccia dopo goccia indubbiamente tende a logorare l'immagine. Ripeto, è una cosa inquietante, perché significa che probabilmente avremo una figura di un Presidente del Consiglio relativamente indebolito e che naturalmente avrà degli influssi non positivi sulla situazione di governo. Ultima domanda in breve Stefano, che cosa ti aspetti dalla cerimonia del ventaglio di oggi pomeriggio, quella di Gianfranco Fini? Insomma, sul fronte politico potrebbe essere forse addirittura più forte, almeno per gli equilibri interni alla maggioranza, di quella di Napolitano, insomma delle parole di Napolitano. Sì, e vediamo. Certamente Fini è stato in questi mesi il personaggio istituzionale, tra l'altro diciamo emanazione dell'area di governo, che più è stato vicino al Presidente della Repubblica e più lo ha assecondato in questo sforzo costante del Quirinale di garantire alcuni equilibri politico-istituzionali, perché la cosa peggiore oggi nel nostro paese sarebbe un vuoto di potere, sarebbe una cosa molto grave che ci riporterebbe ad anni difficili del recente passato. Grazie Stefano Folli. Grazie a voi, per queste analisi. Parliamo, tra l'altro torneremo a parlare di questioni politiche italiane e sentiremo tra poco come i giornali stranieri hanno trattato la vicenda Berlusconi e gli audio delle conversazioni con Patrizia D'Addario. Parliamo di una protesta, perché sono già migliaia gli allevatori che sono dalle prime ore della mattina alla frontiera del Brennero tra Italia e Austria per la mobilitazione promossa da Coldiretti a difesa dell'etichettatura obbligatoria di formaggi e mozzarella che indichino la provenienza, scusate, del latte italiano. È arrivato anche il ministro delle politiche agricole Luca Zaia, abbiamo intervistato Sergio Marini, presidente della Coldiretti. È una giornata per la trasparenza e per, direi, la verità. Noi importiamo nel nostro paese una quantità enorme di latte UHT, di gagliate di latte in polvere, di prodotti e sottoprodotti del latte che poi vengono utilizzati nelle nostre industrie e a me anche in parte delle nostre cooperative, trasformati in formaggi italiani che vengono venduti tranquillamente come italiani nei supermercati a danno dei produttori onesti italiani che fanno la qualità italiana. Questo è un atto di concorrenza sleale, oltre che di non trasparenza nei confronti dei consumatori. Non siamo contro l'importazione noi, siamo per la trasparenza, per scrivere in etichetta tutto quello che c'è all'interno di un prodotto, perché il consumatore lo deve sapere e perché i produttori che si comportano bene debbono essere in qualche maniera premiati e non confusi con tutti gli altri. Quindi quello che auspicate appunto non è che venga vietata la produzione di formaggi in questo modo, ma semplicemente che venga chiaramente indicato. Esattamente, noi chiediamo che laddove ci siano tecniche produttive o origini della materia prima diverse da quelle tradizionali venga chiaramente indicato in etichetta. Si può tranquillamente dire: questa mozzarella è stata realizzata con una cagliata comperata in Lituania con latte prodotto in Lituania, non ci sono problemi, però lo scrivessero, poi dopo sarà il consumatore a decidere qual è il prezzo giusto e se quel prodotto è da acquistare o meno. È ovvio che è ingiusto confondere quella mozzarella o quel litro di latte con un prodotto realizzato direttamente nel nostro paese, perché poi in quel caso viene venduta l'immagine della qualità italiana quando d'Italia non c'è nulla, e questo veramente è una cosa ingiusta, controproducente per i produttori e ingannevole per i consumatori. Questa forma di protesta è piuttosto forte, quali saranno gli atti successivi a questa protesta? Guardi, è una protesta forte dal punto di vista dei contenuti e perché investe tutto il paese e perché comunque sia non finirà oggi ma continuerà nei prossimi giorni. Noi aspetteremo rispetto a questa proposta le reazioni che ci saranno sia a livello parlamentare sia anche a livello degli attori della filiera, perché io voglio aggiungere una cosa: se questa è una battaglia condivisa dalla filiera agroalimentare, condivisa dai cittadini italiani, beh, innanzitutto potremmo anche cominciare volontariamente a scriverlo già in etichetta. La grande distribuzione potrebbe già scrivere in etichetta qual è il latte UHT italiano e qual è il latte UHT comprato dall'estero, giusto per dare un'informazione, così tutti gli italiani sapranno che in Italia non esiste un litro di latte UHT prodotto nel nostro paese, è tutto venduto come italiano ma tutto acquistato dall'estero. Dal Brennero ci spostiamo in un'altra zona alpina per tutt'altri motivi, e dalle ruote dei camion che gli allevatori stanno tentando di bloccare ci spostiamo sulle due ruote e sono quelle dei ciclisti del Tour de France. Piero Augusto Stagi, tappa in parte italiana, no? Esattamente, oggi 16ª tappa dalla Martigny a Bourg-Saint-Maurice, la partenza è avvenuta 25 minuti fa, c'è già una fuga in atto, 30 corridori con dentro Franco Pellizzotti, la maglia qua, che quello che premia il miglior scalatore del Tour de France, infatti sta andando alla ricerca di punti preziosi proprio sul primo gran premio, che è quello del grande San Bernardo, poi per sconfinare in Italia. Piero Augusto, e Contador? Contador è lì nelle prime posizioni, guidato da tutta la sua stana, c'è Armstrong che ha giurato fedeltà, anche stamattina i giornalisti presenti ha confermato, Contador è l'uomo più forte di questo tour ed è giusto che anch'io dia il mio contributo per dargli una mano a vincere il suo secondo Tour de France. Firmato da Berlusconi il piano casa, 100.000 nuove abitazioni in 5 anni per giovani coppie, immigrati regolari e anziani. Decreto anticrisi, la maggioranza è andata sotto su un emendamento del Partito Democratico. Passano intanto nuove norme a favore delle piccole e medie imprese. Dopo Napolitano, attesa per le parole di Fini questo pomeriggio. I giornali stranieri tornano intanto a parlare di Berlusconi, mentre la popolarità del premier è in calo, stando ai sondaggi. Ci sono migliaia di allevatori al valico del Brennero. Vogliono che sul latte e formaggi ci sia l'indicazione di provenienza italiana. Super nella lotto, 100 milioni di montepremi, intanto le giocate crescono del 23%, cosa ci farebbe Lino Banfi lo sentiremo tra poco. Ai mondiali di nuoto oggi è il giorno di Tania Cagnotto, al Tour de France la tappa passa anche per la Val d'Aosta. Vi abbiamo parlato e avete sentito delle registrazioni che sono state diffuse dell'incontro tra Silvio Berlusconi e Patrizia D'Addario. Oggi la vicenda torna naturalmente sui giornali stranieri. Giulia Crivelli, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, direi di cominciare dal Pais che senza un po' quella specie di, non so, un po' ipocrisia verbale che abbiamo in tanti, ma hanno anche all'estero, di chiamare le prostitute escort, perché il nome è appunto prostituta, e il titolo di El Pais è Patrizia aveva detto la verità, sommario, pubblicate le registrazioni della prostituta che andò con Berlusconi. C'è un estratto delle registrazioni, una foto di Patrizia e anche un link al sito di El Pais dove chi vuole può sentire queste registrazioni, così come si può fare collegandosi al sito dell'Espresso. Tutti i giornali francesi ne parlano, da Libération, ovviamente magari con toni un po' più, così cavalcando un po' più la vicenda, quelli che sono ostili per parte politica a Berlusconi e magari dando la notizia in modo un po' più secco, quelli che invece sono magari un po' più conservatori o anche per scelta appunto di non cavalcare i pettegolezzi. In tutti i giornali britannici ne parlano, sappiamo che lo stesso Berlusconi li ha più volte accusati di così proprio di calcare la mano su questa vicenda per ragioni che non hanno poi nulla a che vedere con la vicenda in sé, ma per così rivalità tra il grande mogul dei media Murdoch e lo stesso Berlusconi. In Germania un pochino meno, così fa un pochino meno notizia questa cosa delle registrazioni, ne parla la Süddeutsche Zeitung, anche la Welt, naturalmente il punto è sempre quello, cioè dopo tutte le ci sono, non ci sono, registrato, non registrato, effettivamente queste registrazioni sono venute fuori e Berlusconi non può esserne certo molto contento. Si dà anche notizia di un sondaggio che vedrebbe il tasso di approvazione di Berlusconi in leggera discesa. Ecco, a proposito di sondaggi, Giulia, vogliamo parlare di un altro leader dall'altra parte dell'oceano, sì, di Obama. Insomma, ci sono segnali che forse la luna di miele è finita. Esatto, questi sondaggi croce delizia, insomma, di leader molto popolari come sono Berlusconi e naturalmente come Obama. Sappiamo che Obama aveva battuto ogni record, lo stesso valeva per la First Lady, questi rate approval erano altissimi secondo tutti i sondaggi, e adesso che la crisi economica stenta a finire, vengono continuamente annunciate nuove tasse anche per far fronte alle promesse elettorali come quella di garantire l'assistenza sanitaria a tutti, ebbene cominciano a esserci appunto le prime perdite di punti percentuali. Sul Washington Post per esempio si spiega nel dettaglio il sondaggio fatto da Washington Post con ABC News. In generale questi grandi sondaggi in America vengono sempre fatti da un grande quotidiano insieme a un grande network televisivo, e per la prima volta questo approval rate è sceso sotto il 50%. Naturalmente è più alto ancora tra i membri del Partito Democratico e tra chi ha votato Obama, però tra gli americani in generale, forse come dicevi tu, la luna di miele è veramente finita, ora bisognerà tutte le volte riconquistare la fiducia degli americani, giorno per giorno. Grazie anche per oggi, Giulia Crivelli, grazie, buona giornata. E noi torniamo adesso sulla morte di Cristina Castagna, l'alpinista italiana, ve l'abbiamo raccontato ieri, caduta in un crepaccio mentre scendeva dal Broad Peak, la 12ª montagna più alta del mondo. E lo facciamo con una voce che Radio 24 conosce bene, ossia quella di Simone Moro, anche lui alpinista e che di 8.000 ne ha scalati tanti. Simone, buongiorno. Sì, buongiorno. Simone, tu Cristina Castagna la conoscevi, che ricordo hai? Cristina Castagna la conoscevo molto bene, anche perché abbiamo condiviso una spedizione assieme, anche se facevamo parte di due gruppi diversi, eravamo insieme a Campobase e poi siamo stati insieme in parete, e in più eravamo diventati amici, ogni tanto ci vedevamo, ci frequentavamo nelle associazioni che organizzavano conferenze alpinistiche o forum ad essi dedicati. Comunque Cristina Castagna era veramente una punta, nel senso che non era strettamente vincolata al risultato, quindi alla collezione delle montagne di 8.000 metri, ai record e quindi alla notorietà. Non a caso aveva sempre detto che il lavoro più bello del mondo per lei era quello che faceva, l'infermiera, e il più grande amore della sua vita era la montagna. E quindi il mio termine di persona pura nasce da queste due cose che avevo notato in lei, avevo toccato con mano. Ecco, Simone, ha colpito molto tutti quanti, penso non solamente gli italiani, questo biglietto che ha lasciato, dicendo: se mi accadrà qualcosa lasciatemi dove la montagna mi ha chiamato a sé. E a tutti noi che siamo, consentici di dirla così, delle persone normali, questo amore è così appassionato per la montagna, tanto da travolgere tutto, ci colpisce molto. Sei in grado di spiegarcelo un po'? Innanzitutto io lo vedo anche come un gesto d'amore, non solo verso la montagna, ma verso anche le persone che magari, spinti dall'affetto verso Cristina, magari rischierebbero la loro vita per andare a portare a casa una persona non più viva, un cadavere, e per fare questo si dovrebbe mettere a rischio, e rischio forte, altri alpinisti. Quindi la prima cosa che va considerata è questa: dovete pensare che un elicottero può andare al massimo fino a 5.000 metri con capacità operativa vera, cioè di andare, fare in overing, poter prendere una persona, un cadavere e portarlo via. Cristina si trova a 7.000 metri, quindi potrebbero andare solo delle persone a piedi, e si parla di andare alle quote di volo di un Jumbo, dove c'è quasi un quarto dell'ossigeno rispetto a quello che respiriamo noi tutti ascoltatori in questo momento. Quindi questa è la prima cosa che va comunque considerata. Lei sapeva benissimo che per andare a portare a casa una persona, in questo caso morta, si rischierebbe veramente tanto. Seconda cosa, il suo non era un amore cieco, nel senso che Cristina aveva già saputo rinunciare più volte quando la ragione metteva in evidenza il fatto che rinunciare era la cosa più saggia, anziché immolarsi per la montagna. Però dovete anche pensare che una persona che, come lei, metteva tutte le sue ferie, magari si faceva dare anche dei permessi non retribuiti per stare a far fatica, una fatica scomoda, perché non si diventa né ricchi né famosi a fare alpinisti, bene, la dice lunga sulla profondità del suo sentimento che la legava alla montagna. E non è un sentimento solo di Cristina, è un sentimento anche di cui vi sto parlando in questo momento e di tanti altri come noi. A me spiace che noi passiamo sempre per dei folli, dei fessi che vanno a rischiare la vita per scalare le montagne e non si guarda a quello che sta dietro, la profondità di certi sentimenti. Viviamo in una società dove si fanno delle cavolate appositamente per poi passare alla cronaca e vivere sull'onda delle cavolate senza etica che si fanno in tutti i sensi, nella politica, nello spettacolo, nella vita, in tutto. E invece quelli sono i furbi, perché quelli hanno sfruttato alcune occasioni senza etica e sono diventati bravi. Ecco, molte volte bisognerebbe fermarsi e cercare di leggere dietro le parole di questo biglietto, che chiaramente può essere straziante per le persone che sono a casa, per gli amici, per gli affetti, che magari non conoscono in realtà la situazione che c'è in Himalaya, la situazione che c'è sta dentro nel cuore delle persone che vanno fino là. Insomma, non siamo tutti personaggi senza ragione, che gli piace rischiare la pelle, dei pazzi, dei kamikaze. Se fossimo così lo faremmo per attività molto più remunerative. Grazie Simone Moro, grazie anche di questa testimonianza e buona giornata. Buona giornata. Noi cambiamo argomento e parliamo di mafia, perché si continua a discutere del fatto che le indagini sulla morte di Paolo Borsellino sono state riaperte. Oggi sulla vicenda interviene il procuratore di Caltanissetta. La procura di Caltanissetta, titolare delle indagini per le stragi Falcone e Borsellino, indaga in territori non solo di mafia. Il procuratore caponisseno Sergio Lari afferma che gli investigatori stanno seguendo una nuova pista, non puramente mafiosa, e che adesso lentamente emergono possibili, se non addirittura probabili, contatti fra Cosa Nostra e settori deviati dello Stato. Fra le ipotesi investigative che vengono seguite, in particolare sulla strage di Via D'Amelio, c'è quella che Borsellino fosse venuto a conoscenza della trattativa fra Stato e Cosa Nostra e che si fosse messo di traverso, ed è proprio per questo che sarebbe stato ucciso. Un'altra ipotesi della quale parla il procuratore Lari è che quella trattativa si arenò e allora il capo di Cosa Nostra, Totò Riina, decise di accelerare l'esecuzione della strage di Via D'Amelio allo scopo di costringere lo Stato a venire a patti. Secondo il procuratore di Caltanissetta, l'agenda rossa di Paolo Borsellino, scomparsa il 19 luglio del 92 dal luogo della strage, non è stata certo la mafia a farla sparire. Il furto dell'agenda rossa, sulla quale il magistrato segnava punti e spunti di indagine, secondo Lari può essere stato ispirato, organizzato da un alto livello, e chi l'ha fatta sparire, si dice certo il procuratore nisseno, l'ha fatta sparire per non farla ritornare mai più. Giampiero Casagni, GR24, Il Sole 24 Ore, Palermo. Tutta Italia a caccia della sestina del Super Enalotto, che questa sera metterà in palio un jackpot stratosferico, 100 milioni di euro. Non si tratta del record, ma poco ci manca. La vincita più alta del concorso di Casa Sisale, infatti, lo scorso ottobre a Catania, con 100,7 milioni, insomma, cambia veramente poco. Quello in palio stasera comunque è il più alto montepremi a disposizione in tutto il mondo. Alessandro Milan ha chiesto a Lino Banfi questa mattina in 24 Mattino cosa farebbe con quei soldi. Sentiamo.

che ha fatto nascere l'Agenzia Europea per la Sicurezza Ferroviaria. Oggi la nostra agenzia ha un potere soltanto normativo e regolamentare, non è sufficiente. Io credo che l'Agenzia per la Sicurezza Ferroviaria debba avere gli stessi poteri che hanno l'Agenzia per la Sicurezza Aerea e l'Agenzia per la Sicurezza Marittima, che stanno operando molto bene in settore analogo e che danno dei risultati positivi e incentivano gli Stati membri a rispettare le regole. E questo è il classico caso dove l'Europa, senza invadere le competenze nazionali, deve poter dire la sua, anche dal punto di vista operativo e non soltanto dal punto di vista normativo e regolamentare. Lei poco tempo fa ha ipotizzato una blacklist ferroviaria. Siamo solo, diciamo, all'ipotesi o qualcosa già ha in mente? Io, guardando al sistema della sicurezza aerea, ho detto che bisognerebbe pensare a una sorta in futuro di lista delle compagnie che non rispettano le regole per la sicurezza. Perché questo? Perché soprattutto negli anni a venire, con la liberalizzazione del trasporto passeggeri e del trasporto merci, aumenteranno il numero delle società operanti. Oggi il sistema del trasporto è sostanzialmente sicuro, anche se è capitato un incidente che non doveva capitare. Dobbiamo, nell'era della liberalizzazione, innalzare il livello di sicurezza e fare in modo che non ci siano smagliature. Però questo non significa che la liberalizzazione porta in sicurezza. Però con la liberalizzazione, moltiplicandosi il numero degli utenti della rete ferroviaria, noi dobbiamo fare in modo che il livello di sicurezza standard, che andava bene per una compagnia, possa andare bene per 10, 20, 30 compagnie. Sui trasporti e la nuova influenza, è vero che non è una competenza direttamente vostra, però l'impressione è che le compagnie facciano un po' ognuna per sé. British Airways e Virgin hanno già dimostrato. Si può tentare un coordinamento europeo, quantomeno delle misure di precauzione? Le misure di precauzione per la sanità sono di competenza nazionale. Ci vorrebbe una decisione del Consiglio dei Ministri della Sanità che prendesse alcune decisioni. Noi, come responsabili della politica dei trasporti, possiamo soltanto adeguare le infrastrutture alle decisioni scientifiche prese dai ministri della sanità e dal commissario competente. Non spetta a noi decidere cosa fare, noi possiamo soltanto organizzare una decisione scientifica. Ed era Antonio Tajani, vicepresidente della Commissione europea e commissario europeo ai trasporti, intervistato dal nostro Sergio Nava. Ora parliamo di mondiali di nuoto. I think I have a motto and it says the tragedy of life does not lie in not reaching your goals. The tragedy of life. Dario Ricci, nostro inviato a Roma e tra piscine e mare a questo punto, perché oggi si sono partite le gare anche ad Ostia. Di chi è la voce che hai raccolto e che stiamo ascoltando? Buongiorno, è la voce di Nathalie Dutoit, 25 anni, sudafricana. Oggi Nathalie si è classificata al 21esimo posto, ma ai mondiali di Siviglia un anno fa, sulla 10 km di fondo, era arrivata addirittura quarta. E Nathalie, insomma, risultati d'eccellenza per un atleta che straordinaria lo è, Simone, sotto tanti punti di vista, perché è un'atleta paralimpica. Nathalie ha una gamba amputata a causa di un incidente stradale in cui è rimasta coinvolta da bambina, e però, come abbiamo sentito dalle sue parole, non esistono tragedie che ti rovinano la vita. L'unica vera grande tragedia, ha detto, è non avere obiettivi nella vita. Beh, lei molti dei suoi obiettivi, Simone, li ha realizzati perché sognava di partecipare ai giochi olimpici con gli atleti normodotati. Ebbene, a Pechino ha gareggiato proprio sui 10 km di fondo, classificandosi sedicesima. L'obiettivo adesso, il prossimo obiettivo, è Londra 2012, l'ennesima Olimpiade, e magari, chissà, staremo a vedere proprio. Magari andare a medaglia, perché no, insomma. Ah, sì, beh, tra l'altro, insomma, Nathalie già ha dimostrato di poter competere con le migliori. È stato veramente bello vederla in acqua oggi a Ostia. Ecco, Dario, ci parlavamo prima dell'inizio del giornale radio e mi dicevi che una bella sorpresa è l'organizzazione di questi mondiali di Roma, perché insomma siamo sempre pronti noi italiani a cospargerci il capo di cenere, ogni tanto è il caso di celebrarci. Ma direi proprio di sì, perché insomma ne abbiamo sentite tante e molte le abbiamo anche verificate di situazioni difficili in questa organizzazione. Ebbene, il sito di Ostia, che come abbiamo raccontato è stato danneggiato profondamente dalla mareggiata di 2 giorni fa, e nel giro di 24 ore è stato rimesso in piedi con grande efficienza, grande disponibilità. Oggi sono state 2 gare splendide, purtroppo è arrivato anche l'ennesimo 4º posto, ma poi di questo parleremo a tempo di sport. E dal punto di vista organizzativo devo dire migliore anche di alcuni dei siti olimpici della tanto decantata Pechino 2008, quindi direi che possiamo farci come italiani e soprattutto fare agli organizzatori in questo senso un applauso. Un applauso. Dario, ultima domanda, e questa in 5 secondi perché tanto poi ne parlerete in A Tempo di Sport ampiamente. Sul fronte sportivo oggi è la giornata di Tania Cagnotto. Sì, appuntamento alle 15.30, finale del trampolino 3 metri donne. Tania nelle ultime 2 mondiali ha vinto 2 bronzi, sarebbe bello rivederla sul podio anche oggi. Grazie Dario Ricci anche per oggi. Un breve riepilogo delle notizie della giornata: il piano casa, 100.000 nuove abitazioni in 5 anni per giovani coppie, immigrati regolari e anziani, il decreto anticrisi, la maggioranza è andata sotto su un emendamento del PD, passano intanto le nuove norme a favore delle piccole e medie imprese. Dopo Napolitano, intanto sul fronte politico è attesa per le parole di Fini questo pomeriggio, i giornali stranieri tornano a parlare di Berlusconi, mentre la popolarità del premier è in calo, almeno stando ai sondaggi. Ci sono migliaia di allevatori al valico del Brennero, vogliono che sul latte e formaggi ci sia l'indicazione di provenienza italiana. Ai mondiali di nuoto, lo avete sentito un attimo fa, oggi è il giorno di Tania Cagnotto, mentre al Tour de France oggi la tappa passa anche dalla Val d'Aosta. Ed è tutto per questa edizione del GR Extra Large, condotta e curata da Simone Spezia, con in regia Peter Bescapè e al coordinamento Daniele Biacchessi. Se volete riascoltarci potete farlo su www.radio24.it, dove trovate anche moltissimi altri contributi audio, o potete scriverci naturalmente se avete qualcosa da dirci, extralarge@radio24.it. Il prossimo giornale radio è alle 15, noi ci risentiamo domani alle 13. GR24, il sole 24 ore, direttore Gianfranco Fabi.